prova. Alzami un attimo però. No, però mi sa che mi riversa un pochetto. No, vabbè, scusa, non te lo dico più. Sta parte si taglia. Uno, due, prova. Ok, ok. Mo' è buono, buono. Ma dove devo partire qua io? Vabbè, se non mi dici dove devo partire io mi scordo. Mamma mia, infinito. Questo è un EP infinito. Il problema è l'inizio, infatti. Usci 8 mesi fa. Vabbè, ce l'abbiamo fatta però. Oh, ma devo partire qua io. C'è chi crede nella fede, chi crede a ciò che vede, chi al primo sbaglio smette e chi invece procede. Io combatto la schiavitù come Daenerys a Mirin. Resto l'unico regista del mio film. Ma visto che non ho un esercito di immacolati, mi difendo da solo con i versi più affilati. Con chi resta al mio fianco, con chi ancora non è stanco, con chi ora punta in alto anche se ha toccato il fondo. E nonostante tutto questo è solo l'inizio. Iniziato come gioco e poi finito come vizio. Ho ridisegnato il mondo e ogni sua prospettiva. Devi vivere tutto senza nessuna aspettativa. Tu ricorda che gli infami sono sempre ben nascosti, che i figli di puttana sono sempre i primi posti. Momenti e luoghi giusti sono sempre i lati opposti, e che la verità è merce rara ai giorni nostri.